ci racconti una storia. I racconti di Laura Lorenza Sciolla. Molto spesso i personaggi del mito sono vittime di forze incontrollabili, di un destino prefissato al quale non possono opporsi. Questi personaggi, già di per sé tragici, sono ancora più tragici quando sono assolutamente innocenti e si trovano coinvolti, loro malgrado, in una trama di vendette, punizioni, omicidi. Un personaggio di questo genere è il Minotauro. Nelle narrazioni, il mostro mezzo toro e mezzo uomo ricopre spesso il ruolo del cattivo. Eppure, se si considera la sua storia, si scopre la sua innocenza, la sua drammatica purezza. Il Minotauro è la tipica vittima di un destino più grande di lui. È il capro espiatorio delle colpe dei potenti. È un inconsapevole strumento di vendetta degli dei, loro sì colpevoli. E tuttavia, chissà perché, il colpevole appare sempre lui, il povero Minotauro. Vi leggerò la storia della sua nascita così come la racconta Apollodoro, un oscuro grammatico che, in un periodo imprecisato dell'età antica, compilò un manuale di mitologia ricchissimo di notizie e dettagli. Tutto comincia con una promessa non mantenuta. Promessa che, notate bene, non era stata fatta dal Minotauro, all'epoca non ancora nato, ma da Minosse, futuro re di Creta e marito di Pasifae, colei che sarebbe diventata la madre del Minotauro. Proprio mentre lottava per diventare re di Creta, Minosse fece una promessa a Poseidone, dio del mare. Ecco come Apollodoro racconta la vicenda. Minosse aspirò a diventare re di Creta, ma incontrò opposizione. Allora sostenne che il regno gli spettava per volontà divina e, allo scopo di rendere credibile la sua pretesa, affermò che ogni sua preghiera sarebbe stata esaudita. Così, mentre stava sacrificando Poseidone, lo pregò di far emergere dagli abissi marini un toro e promise di immolarlo quando fosse apparso. Poseidone allora gli inviò un magnifico toro e Minosse ottenne il regno, ma inviò il toro al pascolo e ne sacrificò un altro. Ma Poseidone si adirò con lui perché non aveva sacrificato il toro, perciò lo rese selvaggio e fece in modo che Pasifae, la moglie di Minosse, concepisse una passione per lui. Ed ella, invaghitasi del toro, si procurò la complicità di Dedalo, che era un architetto fuggito da Atene in seguito a un omicidio. Egli fabbricò una vacca di legno montata su ruote, la pese e la scavò all'interno, poi la rivestì con una pelle bovina. Infine, dopo averla collocata nel prato in cui il toro soleva pascolare, vi fece entrare Pasifae. E il toro venne e si congiunse a lei come se fosse realmente una vacca. Così ella diede alla luce Asterio, che fu chiamato Minotauro. Egli aveva il muso di toro, mentre per il resto era umano. In obbedienza a certi oracoli, Minosse lo rinchiuse sotto custodia nel labirinto. Il labirinto, costruito da Dedalo, era un edificio che, con i suoi intricati meandri, sviava dalla via d'uscita. Come vedete, il vero responsabile della nascita del mostro è Minosse, con le sue grandi ambizioni e le sue promesse non mantenute. Innocente è il toro, che si accoppia con Pasifae credendo che sia una vacca. Ancora più innocente è il figlio nato da tale unione, l'essere insieme umano e taurino. E non basta, il poveretto viene rinchiuso nel labirinto solo in seguito alle predizioni di certi oracoli, non perché è giudicato pericoloso o perché è autore di qualche colpa. Apro una parentesi sul costruttore del labirinto, Dedalo, un personaggio tutt'altro che limpido. Egli infatti è fuggito da Atene dopo aver ucciso un suo allievo, dal quale temeva di essere superato nelle arti ingegneristiche, proprio un tipo raccomandabile. Diversamente dagli altri tori, il Minotauro è carnivoro, con una netta preferenza, a quanto pare, per la carne umana. Anche questa però non è una sua colpa, ma è semplicemente una caratteristica della sua particolare natura. Dopo vari anni Minosse, il vero cattivo di questa storia, decide di espandere il suo dominio e, dopo una serie di guerre vittoriose, giunge ad assediare Atene. Ecco come prosegue la narrazione di Apollodoro. Poiché la guerra si prolungava e Minosse non riusciva a espugnare Atene, egli pregò Zeus di punire gli ateniesi. Allora pestilenza e carestia si abbatterono sulla città. Dapprima gli ateniesi, obbedendo a un antico oracolo, sacrificarono le figlie di Giacinto. Poiché nessun vantaggio veniva da questo, consultarono un oracolo sulla loro liberazione e il dio rispose di concedere a Minosse la soddisfazione che avesse richiesto. Recatisi dunque da Minosse, si dissero disposti a rendergli giustizia e Minosse impose loro di inviare 7 ragazzi e altrettante fanciulle disarmati come pasto per il Minotauro. Come noto, a un certo punto fra le vittime destinate al nutrimento del Minotauro vi fu anche l'eroe Teseo, del quale si innamorò Arianna, figlia di Minosse. In cambio della promessa di diventare sua sposa, che peraltro alla fine non fu mantenuta, Arianna diede a Teseo un filo che gli avrebbe permesso di ritrovare la via d'uscita. Ascoltiamo di nuovo il racconto di Apollodoro. Arianna diede un filo a Teseo, che si accingeva a entrare, ed egli, dopo averlo assicurato alla porta, entrò, svolgendolo dietro di sé. Dopo aver trovato il Minotauro nella parte più nascosta del labirinto, lo uccise, colpendolo con i pugni, e poi uscì, riavvolgendo il filo. Povero Minotauro, ucciso dai pugni di Teseo, vittima innocente di intrighi politici, lotte per il potere, oscure profezie di ancor più oscuri oracoli. Non siamo un po' tutti come lui? A reggere le sorti del mondo, oggi, sono oscuri poteri economici, sono banchieri, finanzieri. Eppure a fare le spese delle loro speculazioni sconsiderate siamo noi, la gente comune, piccoli poveri minotauri rinchiusi nei labirinti nei quali ci hanno rinchiusi i potenti, affinché non vedessimo le loro manovre, noi che siamo colpevoli solo di voler vivere. Un accostamento forzato? Un'attualizzazione assurda? Forse, ma non del tutto. A risentirci. Avete ascoltato? Prof, ci racconti una storia. Un'idea di Adelaide Spallino. Programma curato e condotto da Laura Lorenza Sciolla. Regia di Dario Albertini. Prof, ci racconti una storia è una produzione Radio Libriamoci Web per Associazione Culturale Clarite. Licenza Creative Commons 2.5. I racconti di Laura Lorenza Sciolla vi danno appuntamento alla prossima settimana.